Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio della eclettica di metà settimana, un'ora, anche quest'oggi in compagnia di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni della settimana sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20. Vi do gli estremi internet anche per mantenere il contatto in altri orari, giulio@rockfm.com è l'indirizzo di mail per scrivermi direttamente, ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica con cui ricevere di settimana in settimana la playlist di Eclettica con anche le anticipazioni sulla settimana successiva, nel caso ce ne siano, e myspace.com/eclettica che invece è il nostro spazio, quello condiviso, in cui andare a scrivere le cose che tutti gli altri abbiano poi la possibilità di leggere. Gli UFO sono tornati alla ribalta della cronaca ed è ora di prendere in seria considerazione il fenomeno. Per l'esattezza sono le 8:10, quindi non solo siamo in ritardo, ma ho fame. Finora l'argomento dei dischi volanti è stato per lo più monopolio di mitomani e squilibrati. Spesso, infatti, gli avvistatori si dichiaravano appartenenti all'uno o all'altro gruppo, o a entrambi. Tuttavia, persistenti avvistamenti da parte di individui normalissimi hanno indotto l'aeronautica e la scienza a rivedere il loro atteggiamento, un tempo improntato a scetticismo, e la somma di $200 è ora stata stanziata per uno studio onnicomprensivo del fenomeno. La domanda da porsi è la seguente: c'è qualcuno lassù? E in tal caso, hanno un raggio della morte? Non tutti gli UFO possono risultare extraterrestri. Ma gli esperti concordano nel ritenere che qualsiasi rilucente apparecchio sigariforme, capace di sollevarsi verticalmente alla velocità di 23.000 km al secondo, richiederebbe una manutenzione particolare e candele di un certo tipo, disponibili solo su Plutone. Se tali oggetti effettivamente provengono da un altro pianeta, la civiltà che li ha progettati e prodotti deve essere più avanzata di milioni di anni della nostra. O sono più avanti, o sono più fortunati. Il professor Leon Spaceman ipotizza una civiltà extraterrestre più avanzata della nostra di circa 15 minuti. Ciò, secondo lui, dà loro un grosso vantaggio su di noi, perché non hanno bisogno di scapicollarsi per arrivare puntuali agli appuntamenti. Il dottore Brekish Menzies, che lavora presso l'osservatorio di Mount Wilson, oppure in osservazione presso l'ospedale psichiatrico di Mount Wilson, la lettera non è chiara, sostiene che, viaggiando ad una velocità prossima a quella della luce, i viaggiatori impiegherebbero molti milioni di anni per arrivare qui da noi. E a giudicare dai programmi teatrali di Broadway, non varrebbe la pena del viaggio. Viaggiare più veloci della luce è impossibile, e certo anche non auspicabile, poiché il cappello non farebbe che volarti via. Questo era l'incipit della minaccia degli UFO, da Effetti collaterali, di Woody Allen. Cosa è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra. In una... è la sua... insomma, ecco. Dunque, dicevo che è una posizione... Donna in stato di... adorazione. No, ecco, mi sovviene. È un dolce. Lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata di... si può fare di metilo, di per... ecco, è l'imperatore romano. E l'eresiarca bizantino. Giuliano, la prostata. Detto di Patrick Lindenim e di Minus Story, che nell'ordine ci siamo ascoltati in questo inizio di Eclettica di metà settimana, voglio spendere invece qualche parola su The Real Tuesday Weld, non Tuesday Weld l'attrice, ma The Real Tuesday Weld, che è poi lo pseudonimo che ha deciso di adottare il londinese Stephen Coates, che è arrivato il suo sesto album e di album in album trova sempre, da quando c'è Eclettica sulle frequenze di Rock FM, spazio all'interno di queste playlist. Quindi lo trova anche questo suo nuovo dal titolo The London Book of the Dead, dal quale ci ascoltiamo Last Words. Avenue, a helium balloon. days, who knows what it means. So we sat by the launderette with magazines and cigarettes, talked about a million other things. Interessante c'è che secondo gli astronomi moderni lo spazio è finito. È un pensiero confortante, specie per chi non ricorda mai dove ha lasciato gli occhiali. La cosa più importante riguardo l'universo è che esso si espande sempre più e un giorno o l'altro si sfascerà e scomparirà. Ecco perché se la ragazza dell'ufficio di fianco ha qualche numero ma non tutte le qualità che tu vorresti, beh, conviene che ti adatti. La domanda che più spesso ci si pone riguardo agli UFO è: se quei dischi vengono dallo spazio siderale, perché i loro piloti non tentano di mettersi in contatto con noi, anziché librarsi misteriosi sopra lande desolate? La mia teoria è che per gli abitanti di un altro sistema solare, librarsi possa essere un modo di comunicare socialmente accettabile. Anzi, potrebbe essere piacevole. Io stesso mi sono librato sopra una tricetta diciottenne per 6 mesi, una volta, ed è stato il periodo più bello della mia vita. Va anche tenuto presente che quando parliamo di vita su altri pianeti, ci riferiamo solitamente agli amminoacidi, che non sono mai molto socievoli, neppure alle feste. Per lo più, si tende a ritenere che quello degli UFO sia un problema moderno. Non potrebbe invece essere un fenomeno con cui l'uomo è alle prese da secoli? A noi un secolo sembra lunghissimo, specie se devi dei soldi a qualcuno, ma in sede astronomica dura un secondo. Per questo è consigliabile portarsi sempre appresso uno spazzolino da denti ed essere pronti a partire così, su 2 piedi. Gli studiosi ora ci dicono che oggetti volanti non identificati si avvistavano anche ai tempi biblici. Per esempio, nel Levitico si legge: «E una gran palla d'argento comparve sopra l'esercito assiro, e in tutta la Babilonia fu pianto e stridore di denti, finché i profeti ordinarono alle turbe di abbozzarla e di darsi un contegno». Può darsi che questo fenomeno sia in relazione con quello descritto anni dopo da Parmenide. Tre oggetti arancione comparvero ad un tratto nei cieli e volteggiarono sopra l'acropoli, librandosi poi sulle terme, dove alcuni fra i nostri più saggi filosofi ateniesi furono colti da malore. E può darsi altresì che quegli oggetti arancione fossero qualcosa di simile a ciò di cui si parla in un manoscritto sassone del XII secolo, di recente scoperto. Una lauca e i lauce, et guari cum grande et fulgente lucore, una grossa palla rubra super amni e vortice. Vi ringrazio, signore e signori. Questa cronica fu ritenuta dal clero medievale annunziante la fine del mondo. Figurarsi la delusione generale quando invece arrivò lunedì e si dovette tornare al lavoro. Questo era ancora l'incipit della minaccia degli UFO, da Effetti collaterali di Woody Allen. You in a time. sicuramente un buon periodo per l'etichetta canadese Arts and Crafts. Ci sono ben due pubblicazioni in questa fine estate che sono degne di nota, una già ascoltata nella settimana di Eclettica, ovvero sia The Most Serene Republic, e l'altra invece appena passata, appena chiusa, TBTF, dall'album d'esordio solista di Kevin Drew dei Broken Social Scene. Non è che abbia lasciato la band, ma così si è preso un po' di tempo per sé. Si chiude questa prima parte di Eclettica invece con una delle scoperte, una dei nomi nuovi, una delle scoperte di Eclettica di questo periodo, The Thieves of Kailua, con il brano omonimo. My camera, got my handgun. È il kibbutz. È facile. Dunque, dicisi kibbutz. Dunque, è una tipica espressione dialettale di Albero Bello, usata dalle contadine quando bussano alla porta del trullo con molta violenza, con arroganza. Allora queste contadine, vestite di nero, rispondono kibbutz nel dialetto locale.